Andrea? Pronto, Don Tino. Buonasera, Don Andrea. Eccomi, buonasera. Ecco, siamo felicissimi che ci ha fatto questa proposta, adesso è già la quarta lezione, di leggere e commentare questo libro che tu hai scritto, quasi ispirato, un libro nuovissimo e originalissimo, Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Autore Don Andrea Mardegan, edizioni Paoline con acquerelli di Anna Maria Trevisan, giusto? Sì. Siamo arrivati a pagina 33, questo capitolo si intitola Nell'aria il profumo dei fiori nuovi, e poi prima parte di questo terzo capitolo, eri davvero la luce della mia vita. Parla qui, non so se parla la Madonna o San Giuseppe. Sì, è Giuseppe. Giuseppe, bene, a te la parola, Don Andrea. Grazie Don Tino. Dobbiamo stare sui 25 minuti. Sì, benissimo. Ecco, sì, siamo arrivati quindi al terzo capitolo di questo libro. Questo capitolo avviene dopo che Maria ha ricevuto l'annuncio dell'angelo, e mentre si sta preparando, sta decidendo, sta dicendo a Giuseppe il suo proposito di viaggiare, di andare subito da Elisabetta. E io mi sono immaginato, altre persone immaginano in modo diverso, che Maria va in una carovana che va verso Gerusalemme, e quindi con altre persone, ma che Giuseppe rimane a Nazareth per lavorare, e che quindi, ecco, e quindi c'è questo momento di confidenza tra Maria e Giuseppe, e poi dopo è presente con la copertina del libro, che è un delicato e tenero abbraccio tra Maria e Giuseppe, un po' questo momento, l'addio, cioè quando si salutano prima della sua partenza. Sarebbe la copertina del libro, bellissimo. È proprio la copertina del libro, sì, è un acquerello molto originale, molto bello, molto nuovo, e che la pittrice, l'Anna Maria Trevisan, ha dipinto leggendo il mio libro, come anche gli altri 17 acquerelli, no? Sono 18 in totale, che illustrano appunto quello che io racconto, no? E quindi Giuseppe dice nel suo dialogo con Maria, ricordando quei momenti, e dice: era un giorno come tanti altri, era di primavera. Ne parlammo tante volte negli anni a venire, Maria, ti ricordi? Avevo il dono, tu mi dicevi che era raro tra gli uomini, di ricordarmi degli anniversari. E la nostra religione ci aiutava a ricordare quelle sue feste di ogni anno, e mi aiutava la primavera, la posizione della luna e del sole, il profumo dell'aria dei fiori nuovi, quel profumo di quella mattina nella quale al pozzo eri come sempre bella e splendente, ma forse è ancora più bella, più felice, più coraggiosa. Qui è Giuseppe che ricorda negli anni, tutte le volte che torna la primavera, e riparlava con Maria di quel giorno in cui lei lo aveva salutato dicendogli che si sarebbe assentata per 3 mesi, e Giuseppe poi, ripensando, ricorda la sua aria così bella, così felice, così coraggiosa, e dopo lo capirà perché Maria aveva già avuto l'annuncio dell'angelo, anche se nel mio pensiero, nella mia immaginazione, nella mia preghiera, penso che Maria abbia deciso di non dirgli tutto subito, ma di lasciare che fosse il Signore a intervenire nella vita di Giuseppe e anche gli eventi, no? E Giuseppe racconta così, dice: cercai di dissuaderti dal compiere quel lungo viaggio da sola, eri con altri, mi dicesti, un gruppo del paese, non c'era pericolo, ed eri sicura di dover andare, l'Altissimo te lo aveva suggerito in un modo che mi avresti raccontato un giorno, in quel momento lo volevi tenere per te, era troppo grande, un modo che non ti lasciava dubbi, Elisabetta aveva bisogno di te, volevi aiutarla a partorire. Tu intuivi che anch'io ero coinvolto in quell'evento miracoloso. Qualcosa della nostra storia faceva parte di quell'evento. Forse la nostra promessa, la nostra decisione aveva toccato il cuore di Dio, inducendolo a suscitare quella nascita miracolosa in Elisabetta anziana. Volevi capire di più, volevi raccontarle di noi due, del nostro segreto. E mi fidai di te. anche in quel momento come avrei potuto non fidarmi di te in quella decisione in fondo marginale per noi, dopo che ti avevo donato la vita intera, tu eri davvero la luce della mia vita. Quindi ecco, io vedo, immagino che in questo dialogo tra Maria e Giuseppe, che Giuseppe, appunto si fida di Maria, in fondo sanno già entrambi che la loro vita è segnata da una presenza di Dio molto particolare, ma da dei disegni di Dio che si sono confidati già, a no, questo proposito di Maria di vivere il matrimonio in modo virginale, e Giuseppe aveva avuto la capacità di capire, e quindi si fida che qualunque altra cosa avvenga, qualunque altra cosa il Signore introduca nella loro vita, sarà buona, sarà bella, sarà per un bene più grande, e Giuseppe si fida anche dei tempi che Maria decide nel suo dialogo con Dio per svelargli appunto ciò che il Signore le sta dicendo. Certo, nello stesso tempo, quindi io vedo anche in questa decisione di Maria una saggia gradualità, in fondo è poi la gradualità che noi vedremo anche, che noi abbiamo visto nella storia della salvezza, come Dio con gradualità si rivela al suo popolo, e anche Gesù stesso quando con gradualità si rivelerà, no, anche al mondo e anche ai suoi discepoli. Quindi lo vedo così in coerenza con questa gradualità di Dio nella rivelazione, il fatto che Maria con grande saggezza anche umana sappia portare Giuseppe poco a poco a comprendere quel mistero grande che le è stato rivelato dall'angelo. Allo stesso tempo però c'è anche l'umanità di Giuseppe che non è solo fiducia, non è solo appunto luce che vede negli occhi di Maria, ma poi c'è anche il suo timore. E io così metto sulla bocca di Giuseppe: temetti però, lasciandoti andare, di perderti, anche di rimanere solo per quei tre lunghi mesi, di rimandare troppo le nostre nozze, di dover affrontare le chiacchiere dei paesani, e te lo dicevo, o meglio, lo leggevi sul mio viso, non riuscivo a nasconderti nulla. E mi piace, ecco, perché a volte sappiamo, no, per esperienza, che nell'amore umano e anche nell'amore materno, delle nostre sorelle, insomma, le donne hanno questa capacità a volte di leggere sul volto, no, del figlio, del marito, del fratello, qualcosa che lo preoccupa, e anche a volte riescono anche a indovinarlo. No? Ecco, io intravedo in Maria questa capacità di leggere Giuseppe, nel suo libro di Giuseppe, i suoi sentimenti, e poi Giuseppe dice: con una carezza dolcissima cercasti di rasserenare il mio cuore, mi dicesti: vieni anche tu più avanti quando potrai. Ebbi una percezione ulteriore che la mia vita fosse nelle tue mani e attraverso di te nelle mani di quel Dio che ti aveva creata così bene. Era il suo capolavoro, e te lo dicevo ammirato, e tu sorridevi, e quando sorridevi sembrava che il cielo ti circondasse con ghirlande di luce e cominciassi ad alzarti intorno. Mi dicevi che quel Dio che ti guidava in tutti i tuoi passi avrebbe aiutato anche me in quei mesi, e io lo credevo, dopo averti visto, una grande pace mi possedeva il cuore, quel giorno ancora di più. Ecco, a me è piaciuto far vedere come nel cuore di Giuseppe si intrecciano, così come nel cuore di Maria, diciamo, la dimensione umana e la dimensione divina, no? del mistero, della redenzione. E così, diciamo, da un lato lui è innamorato di Maria ed è rassicurato dalla sua bellezza, dalla sua gioia, dal suo riguardo, dalle sue carezze, e allo stesso tempo però Maria lo aiuta anche dandogli dei motivi di riferimento all'azione di Dio, no? Chi mi dicevi che quel Dio che ti guidava in tutti i tuoi passi avrebbe aiutato anche me in quello, che cioè mi dà elementi di fede soprannaturale e insieme elementi di sostegno con il suo assetto umano, no? A questo punto faccio intervenire Maria, no? nel dialogo tra i due. Bellissimo, il titolo è Quel mio primo viaggio con Gesù nel grembo. Ecco, esattamente. Quindi Maria dice: era l'epoca dei viaggi, la stagione del tempo e delle poche piogge. Pensavo che Dio aveva scelto bene i tempi per permettermi di andare da Elisabetta ad aiutarla. La fretta, e quella fretta di cui sappiamo nel Vangelo, no? di Luca fu determinata dalla carovana che partiva, ma anche dal desiderio di confidarmi con mia cugina e sfuggire all'ambiente di incomprensione che si stava creando intorno a me. E io penso che a volte anche le nostre decisioni sono spinte dallo Spirito Santo, no? Le scelte della vita, anche piccole, però allo stesso tempo sono come anche aiutate da contingenze umane. E io immagino anche questa intuizione attraverso l'accenno che l'angelo Gabriele ha fatto ad Elisabetta, che esisteva una donna che le voleva bene, che era sua parente, che era anche lontana dal suo ambiente, che allo stesso tempo aveva avuto un dono di Dio molto grande, quindi simile, analogo, anche se nulla è simile al dono della maternità divina di Maria, a quello di Maria, e quindi lei avrebbe potuto capirla, con lei avrebbe potuto confidare quel grandissimo mistero, e questo è un bisogno umano che noi tutti abbiamo, a volte anche con le grandi scelte di Dio nei nostri confronti, di poterci confidare con qualcuno che ci possa comprendere, no? Un amico, un direttore spirituale, ecco, un sacerdote, insomma, in questo caso una persona che ha avuto, in questo caso tra donna e donna è anche più facile, una persona che ha avuto un'esperienza di Dio così grande e quindi è facilitata a comprendere, così intuiva Maria, quella grandezza che era accaduta a lei, no? Inimmaginabile. Perché mi allontanavo poco prima del matrimonio, finché c'erano le chiacchiere del paese? Io mi immagino, ci ho tenuto anche in questo libro a far vedere come la vita di Maria e di Giuseppe e di Gesù sono state intessute, il Vangelo ce lo dice, da anche da cose grandi, ma belle, ma anche da difficoltà, e do un po' voce a queste normali difficoltà che accadono un po' tutti, ecco, nelle chiacchiere del paese. Perché andavo senza Giuseppe? Questo mi chiedeva la gente di Nazareth. Io pensavo a come aiutare Elisabetta a partorire, riflettendo sull'annuncio appena ricevuto, il cuore della mia vita normale, mi dicevo: per vivere il mistero devo camminare verso ciò che sono sempre stata. Anche senza l'annuncio sarei comunque corsa da lei se lo avessi saputo. Adesso sarei andata per vivere con mia cugina il mistero di Dio. Mi piace sottolineare appunto queste cose che noi sappiamo in teoria, no? Per la fede sappiamo che la grazia del Signore, anche la grazia della vocazione, sempre si appoggia sulla nostra natura che abbiamo ricevuto così con la nostra creazione, con la nostra nascita, con la nostra dai nostri genitori. Quindi Dio non rinnega mai ciò che ha fatto con noi nel crearci, la nostra personalità, e allo stesso tempo la vocazione soprannaturale divina è qualcosa di più, che però si appoggia su ciò che noi siamo sempre stati. Quindi è bello vedere per me Maria che è anche con la vocazione unica di essere madre di Dio continua a essere quello che lei è umanamente, quindi anche una donna giovane ma già coraggiosa e insomma intraprendente. Giuseppe mi incoraggiava, ma notavo nel suo sguardo il dispiacere della lontananza e un po' di preoccupazione. Molti anni dopo, vi faccio un po' una piccola memoria e ripenso poi alla vita con Gesù già più grande, mentre mia figlia saliva a Gerusalemme, dove avrebbe trovato la morte e poi la risurrezione, avrei ricordato quel mio viaggio da promessa sposa e avrei pensato che il viaggio verso Gerusalemme lì lo aveva già fatto con me, racchiuso nel mio grembo, appena concepito, e così avrei cercato di avvolgerlo con il mio amore da adulto per facilitargli il cammino. Anche quel mio primo viaggio con Gesù nel grembo fu un viaggio faticoso. C'erano persone, alcuni conoscenti che mi proteggevano, ma io ero sola con il mio mistero. Ecco, leggendo queste parole ho pensato che tutti noi a volte abbiamo, possiamo vivere la prova della solitudine, a volte è una solitudine tipica di essere soli, di non avere persone accanto, altre volte è una solitudine interiore, non poterci confidare o vivere la prova di non essere compresi, no? Da persone che ci vogliono bene. E forse però oggi a volte abbiamo queste facilitazioni le telefonate più facili, i messaggi più immediati attraverso l'internet, siamo vicini a persone anche lontane, e forse ci possiamo dimenticare di che cos'era la vita quando invece si doveva stare proprio lontani, proprio tanti mesi, dalle persone amate tanti anni, no? È una solitudine ancora più forte, ancora più dura. Quando sei così vicino a Dio e non lo puoi comunicare a nessuno, è possibile percepire la solitudine anche se sei attornato alle persone amiche. Con il pensiero ero sempre con Giuseppe, in un modo che, sono sicura, lui non avrebbe potuto neanche immaginare. Quanto ero con lui, quanto lo amavo. Sapevo che lo sapeva, ma anche che non avrebbe potuto capirlo in tutta la sua intensità. Questa è la distanza che il peccato d'origine ha messo tra Adamo ed Eva e che noi, Giuseppe e io, con la nostra storia e il destino affidatoci da Dio e questo frutto mai immaginato del mio grembo, avremmo potuto cercare di colmare. E quando, forse ci ricordiamo bene, quando avviene il peccato di Adamo ed Eva, poi tra le conseguenze c'è questa difficoltà tra l'uomo e la donna, no? Tra la sposa e lo sposo, questa difficoltà che è espressa nella Genesi dal fatto che ecco il tuo istinto ti porterà verso il tuo uomo, ma lui ti dominerà. Ecco, c'è qualche difficoltà, no? E anche grossa. Io, a me piace di pensare che Giuseppe e Maria, no? Maria con la sua essere preservata dal peccato originale, Giuseppe comunque con una grazia grandissima, possono vivere un matrimonio così intenso nella loro storia d'amore da aprire la strada ad una sintonia tra gli sposi che io penso che la grazia di Dio, la grazia del matrimonio vuole da parte di Dio consegnare, no? Anche se con un cammino a volte faticoso. Bene, quindi io affido in qualche modo a Giuseppe e a Maria tutti gli sposi cristiani, ma anche tutti gli sposi che anche non conoscono Cristo, perché grazie alla loro intercessione e al loro esempio possono arrivare a colmare questa distanza che il peccato originale ha messo anche tra gli sposi. Dici a un certo punto, no? È molto interessante. Un giorno fu insidiata da un serpente. Io penso più avanti, ecco, verso la fine della pagina 38, una percezione che tentasse con odio al mio grembo, lanciò il urlo, lo abbatterono e poi io poi gli schiacciai la testa con il calcagno come per scacciare per sempre quella paura. Un uomo della carovana che assisteva alla scena, colpito dalla mia violenza, scherzando citò il calcagno come per scacciare per sempre quella paura. Un uomo della carovana che assisteva alla scena, colpito dalla mia violenza, scherzando, citò quel passo della Genesi, il famoso passo della Genesi. Certo, 3, certo, quindi. Bello. Io porrò inimicizia fra te e la donna, questa ti schiaccerà la testa e qui le inserirà il calcagno. Lui lo diceva per scherzare, questo è di un soprassalto. Concludo così la testimonianza di Maria e poi in questo capitolo aggiungo anche un altro intervento di Giuseppe, no? Che spiega un po' il suo rimanere a Nazareth da solo, anche il motivo per cui era. Vado avanti un po' con questo, anche questa piccola testimonianza di Giuseppe. Io e questo l'ho intitolato La mia vita è già tutta tua. Bello. Ero rimasto a Nazareth per lavori in conventi che non potevo trascurare. Lasciarla partire per Ain Karim, è il luogo dove si immagina che abbia vissuto Elisabetta, è molto bella, tra i monti, no? Vicino a Gerusalemme, era stato un altro modo di dirle: la mia vita è già tutta tua, decidi tu. E la realtà del lavoro mi limitava, non potevo seguirla, e questa è una realtà che limita tante volte, oggi anche le donne, ma gli uomini nel poter stare vicini. Dopo la sua partenza il lavoro mi prendeva la testa, cuore e mani, ma spesso il dubbio mi tornava, avrei forse dovuto accompagnarla, ero stato egoista e troppo attaccato al mio lavoro. Poi riflettevo, c'è da mettere su famiglia, abbiamo proprio bisogno del frutto del mio lavoro, sai, la realtà che è comune a tantissime famiglie, a volte addirittura ecco, la sposa deve anche andare lontano per riuscire a guadagnare per tenere sulla famiglia. E l'accompagnavo con il cuore, in questo così anche la sacra famiglia di Giuseppe e Maria sono nata una strada e quindi anche nella famiglia, come dire, favorita dalla grazia più grande che Dio può dare a una donna, no? La grazia dell'incarnazione. Però a me fa piacere, e penso che sia vero, mettere in evidenza tante difficoltà, anche questa dell'economica, della necessità del lavoro, che mi porta a stare lontano. E l'accompagnavo con il cuore, le ripetevo dentro di me, affidandomi al cielo, quei complimenti che gli avevo detto un giorno rubandomi dal cantico, no? Il cantico dei cantici. Permetti che le leggo io? Sì, benissimo. Allora, siamo alla cantica. Siamo alla pagina 39. Sì, ma la cantica è capitolo 4, mi sembra. 4, 1, 7, sì. Sì. Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe, dietro il tuo velo. Le tue chiome sono come un gregge di capre, che scendono dal monte Galad. Tutta bella sei tu, amata mia, e in te non vi è difetto. Bellissimo. Mi sembra molto bello che Giuseppe prenda da questo libro così amato dal suo popolo, che è un canto d'amore, no, per gli sposi, e tutta la sua persona si rendeva così vicina da darmi forza nei momenti difficili. Ecco, in fondo io vedo che in Giuseppe, il suo amore per Maria, in quei termini di lontananza, in fondo assomiglia un po' al nostro amore per Maria, che magari non la vediamo, no, con gli occhi, però la possiamo invocare e lei ci si rende vicina. E conoscevo quel pianto, ero andato tante volte per quelle strade, ripercorrevo nella mente tutte le tappe, oggi la terza tappa, domani la quarta, mi sorprendevo nel ricordare i passi del cantico, perché là è l'amato che scompare. A me era capitato il contrario, io rimanevo e lei era scomparsa, e mi cambiavo le parole al femminile, l'amata mia se n'era andata, era scomparsa, io venni meno per la sua scomparsa, no? Ecco il capitolo quinto. Certo, della cantica. Il versetto 6. Mi riconoscevo, prima non l'avrei mai immaginato, dovevo ammettere da me stesso, un uomo forte, sentivo molto la sua mancanza. Ecco, quindi cito un altro passo del cantico, no? Bellissimo. Poi vuoi leggerlo tu? Sì, quello, mettimi come sigillo, quello dici? No, prima l'ho cercata ma non l'ho trovata. L'ho cercata ma non l'ho trovata. L'ho chiamata ma non mi ha risposto. Non poterla vedere ogni mattina alla fontana, sapere che abita a pochi passi, in qualunque momento potresti raggiungerla e guardarla, tutto ciò mi mancava. Le chiedevo nell'intimo del mio spirito, confidando che quella mia preghiera la raggiungesse in qualche modo. Ecco, leggi tu questo versetto. Sì, che poi concludiamo perché il tempo sta per scadere. Sì. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore. E non era semplicemente una bella frase, davvero io ne facevo esperienza. Ecco, penso che è un po' un pensare che Giuseppe nella sua vita intima, che è la vita d'amore per Maria, ma diventa anche la sua vita in fondo alla sua vita interiore, che si avvicina alla nostra preghiera, usa queste parole bellissime dello Spirito Santo, il cantico dei cantici, le manda verso Maria e la sente vicino al suo cuore. Molto bene, un libro molto indovinato e ispirato, direi, ispirato da Dio, dalla San Giuseppe e la Madonna, ma anche da Giuseppe e Maria, dal San Giuseppe Maria e Scrivà, vero? Allora, una bella benedizione anche a nome del tuo fondatore e su tutti gli ascoltatori, specialmente su noi sacerdoti. Allora, che la benedizione di Dio onnipotente attraverso l'intercessione di Giuseppe e di Maria e anche di San José Maria discenda su di voi e rimanga sempre sul vostro lavoro, sulla vostra amore in famiglia e anche sul vostro apostolato, e rimanga sempre. E grazie, amen. Grazie di tutto, ci sentiamo la prossima volta per questa storia così avvincente, splendida, che sta conquistando tutti gli ascoltatori. A presto, prega per noi e ricordaci nella messa.